questo giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. È scattata in tutta Italia la protesta degli autotrasportatori e dei cosiddetti forconi. Presidi in molte città, bloccate alcune autostrade, tensioni in piazza a Torino. La protesta aderisce anche Forza Nuova. Renzi il giorno dopo il trionfo. Questo pomeriggio il sindaco di Firenze annuncerà la composizione della segreteria, poi stasera probabilmente un incontro con Letta. Intanto Berlusconi lancia un'ipotesi di governo con tutti. IMU, i comuni hanno tempo fino a questa sera per pubblicare le delibere sulle aliquote sui loro siti internet. Tra una settimana la scadenza di pagamento per seconde case e immobili strumentali. Ancora attenzione in Ucraina, una colonna di blindati è arrivata nella piazza di Kiev. I manifestanti chiedono a donne e bambini di lasciare il posto. 26 coppie italiane bloccate in Congo da 4 settimane con i loro figli adottivi. Possono partire solamente lasciando i bambini, di cui alcuni malati, nel paese africano. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete commentare in diretta potete farlo al 349-238-6666 con gli sms dunque, oppure con l'hashtag Effetto Giorno su Twitter. In apertura dunque la protesta che sta animando questa giornata, la protesta dei forconi, che comprende anime molto diverse. Ci sono gli autotrasportatori che stanno bloccando alcune autostrade in tutta Italia. Tra poco, naturalmente, alle 13.15 con Strade in Diretta vi daremo gli aggiornamenti puntuali di qual è la situazione. Come si diceva, una protesta che ha raccolto adesioni di vario genere. La situazione di tensione maggiore al momento sembra essere a Torino, dove tra l'altro sono stati anche bloccati i treni ad alta velocità, ma c'è stato qualche scontro con la polizia e lanci di lacrimogene. Ci colleghiamo dunque con Valentina Innocente dal capoluogo piemontese. Buongiorno. Sì, buongiorno. Torino è diventato il centro della protesta, la sede della regione in Piazza Castello infatti è stata presa d'assalto da manifestanti che hanno lanciato bombe carta e lacrimogeni. Le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni in una Torino blindata. Dall'alba infatti la protesta dei forconi ha bloccato le stazioni di Porta Nuova e Porta Susa invadendo i binari. Traffico in tilt e negozi chiusi. E nella mattinata i manifestanti hanno anche cercato di forzare il cordone di polizia per raggiungere la sede di Equitalia. Ora la protesta si è incentrata contro la giunta regionale in Piazza Castello, la guerriglia non è ancora terminata. Dal Viminale intanto è arrivata la minaccia di tolleranza zero. E per ora da Torino è tutto, vi restituisco la linea. E andremo a collegarci nel corso di questa puntata, naturalmente se riusciremo, perché poi la situazione è un po' tesa, un po' complessa, con alcuni dei leader della protesta per capire che cosa hanno da dire. Ci collegheremo anche col presidente della commissione di garanzia sugli scioperi per capire quanto ci sia di illegale in tutto questo e in tutti i blocchi. Andiamo però alla politica, adesso il giorno dopo il trionfo di Renzi. Ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta per capire che cosa succede oggi. Vincenzo, buongiorno. Simone, buongiorno. Ieri sera la netta affermazione, il primo discorso da segretario designato, la formalizzazione arriverà infatti domenica prossima nell'Assemblea Nazionale del PD, oggi subito, giornata romana per Matteo Renzi, l'incontro tra breve nella sede di Largo del Nazareno con il segretario uscente Guglielmo Epifani, alle 15.30 poi la conferenza stampa che svelerà la nuova segreteria, 12 elementi equamente divisi tra uomini e donne e poi forse in serata il faccia a faccia con il Presidente del Consiglio Letta. La scelta della squadra di lavoro che lo supporterà nei prossimi mesi darà già delle indicazioni sulla strategia politica dell'attuale sindaco di Firenze, se ci sarà insomma spazio per le cosiddette minoranze o meno. A sentire l'intervento di ieri sera, Renzi sembrerebbe orientato ad un cambio radicale. Ora spetta a noi, ha detto Renzi, archiviando così di fatto la vecchia classe dirigente del partito. Ma queste sono ancora le ore dei festeggiamenti e delle congratulazioni. La telefonata più importante a Renzi è quella del capo dello Stato. Napolitano ha fatto tra l'altro i suoi auguri per l'importante impegno che attende il neo segretario, telefonata ieri sera a Renzi anche di Berlusconi. Simone. Grazie a Vincenzo Miglietta. Intanto andiamo dal lato centrodestra, dove ieri è tornato ad intervenire Silvio Berlusconi parlando della possibilità addirittura di un governo col Movimento 5 Stelle e con Sella. Sentiamo. All'indomani della sua vittoria nelle primarie del PD, Forza Italia guarda anche a Matteo Renzi nella speranza di far cadere il governo Letta ed andare al voto anticipato. Al neo segretario democratico oggi si rivolge Brunetta, che lo invita a fare insieme la nuova legge elettorale. Renzi vuole il bipolarismo come Berlusconi e come Grillo. Se si mettono insieme la legge elettorale si fa in una settimana, dice il capogruppo azzurro alla Camera. Per fare la nuova legge elettorale lo stesso Berlusconi ieri si è detto disponibile anche a dare vita ad un governo di scopo con Sel e Movimento 5 Stelle. Le sirene di Forza Italia in queste ore guardano quindi a Renzi ma anche a Grillo, che dal canto suo chiede invece di ripristinare il Mattarellum per tornare quanto prima alle urne. Per questo il leader dei 5 Stelle ieri ha rivolto anche un nuovo attacco al Quirinale. Secondo Grillo, dopo la bocciatura del Porcellum da parte della Consulta, Napolitano è un presidente incostituzionale e l'unico atto degno che gli resta, una volta tornati alla vecchia legge elettorale, è quello di sciogliere le Camere e non farsi più vedere in giro. Andrea Viali, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma. In questa giornata, naturalmente, il nostro Stefano Folli lo prendiamo in diretta. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone. Adesso arriva il difficile per Renzi. Sì, arriva il difficile su tutti i fronti. Tanto c'è questo abbraccio, insomma, piuttosto rischioso che subito Berlusconi gli offre, perché Berlusconi ha capito che Renzi è il personaggio del momento e cerca di avvicinarsi a lui, ma naturalmente credo che non sia politicamente agibile per Renzi cominciare la sua carriera di leader del PD con un accordo con Berlusconi, sia pure sulla legge elettorale. E d'altra parte deve gestire il partito, non sarà facile, deve gestire il rapporto con il Presidente del Consiglio, non può apparire, io credo, un destabilizzatore, deve apparire invece come il motore delle riforme e il rinnovatore di un impegno di governo che è un po' sonnolento. Quindi diciamo che c'è tanta carne al fuoco. Ieri sera Renzi ha parlato più al paese che al suo partito, ha parlato un po' come candidato alla Presidenza del Consiglio, diciamolo pure, ma lui non può non sapere che in questo momento c'è da fare un lungo percorso prima di andare alle elezioni. Non abbiamo neanche una legge elettorale, quella che abbiamo, quella resa proporzionale dalla Corte, è una legge che a Renzi non serve a nulla perché darebbe l'ingovernabilità totale. Quindi prima di pensare alle elezioni c'è da costruire sia con il PD, sia nel rapporto con il governo e sia soprattutto sul piano delle istituzioni. Grazie Stefano Folli per questo punto in diretta. Allora, in apertura ci siamo collegati con la nostra giornalista che si trova a Torino e che si trovava a Torino in queste ore per la protesta, appunto, dei cosiddetti forconi. Ci colleghiamo adesso con uno dei rappresentanti del coordinamento nazionale del 9 dicembre proprio a Torino. È Cristian Rota, buongiorno. Buongiorno. Com'è la situazione ora? L'avete fatto, cioè, più tranquilla? No, ma da noi in Piazza Pitagora, io sono in Piazza Pitagora ed è sempre stata tranquilla, non c'è mai stato nessun problema. Senti una cosa, mi spiega perché protestate, che non devo dire la verità, cioè c'è tanta roba dentro a questa protesta, perché come abbiamo raccontato c'è anche Forza Nuova, qualcuno ha parlato di infiltrazione di anarchici, che non si è capito bene per cosa protestate. Allora, noi le infiltrazioni ci sono sempre, diciamo che noi siamo dei cittadini normalissimi, protestiamo perché questo governo non ha risposte ai problemi che ci sono in questo paese, semplicemente. Noi vogliamo che si dimetta, tutto qua, perché non ha risposte per i problemi che ci sono in questo paese. Quindi solo per le dimissioni del governo protestate? Sì, noi vogliamo le dimissioni del governo, sì, perché non c'è niente che funziona in questo paese qui, niente. E la parte propositiva però, Rota, mi scusi, dov'è? La parte propositiva? Allora, noi proponiamo che al governo ci vada gente eletta da noi, non gente che si autoelegge, perché noi non abbiamo elette queste persone qua. E che cosa volete che faccia questa gente eletta da voi? Che metta le cose a posto. In che modo? Non faccia i tagli sulla sanità, non faccia i tagli sui disabili. In un paese come l'Italia non è possibile che ci sono 3 milioni di disoccupati, io sono uno di quelli. Non è possibile. Tutto qua, non è possibile. I commercianti, gli ambulanti che sono tartassati dalle tasse, non è possibile. Non si può più andare avanti così. Loro sono ricchi, hanno tutte le agevolazioni e il popolo va a cercare la frutta e la verdura al mercato. Senta, fino a quando andrete avanti, Rota? noi andremo avanti a oltranza fino a quando non arrivano risposte da Roma. Grazie a Cristian Rota, che è uno dei rappresentanti del coordinamento nazionale del 9 dicembre a Torino. Magari poi più avanti cercheremo di collegarci anche con qualcuno della Sicilia. Allora, intanto Enrico Letta oggi è a Milano. Nel suo intervento oggi, nel suo incontro col presidente della Commissione europea, José Manuel Durão Barroso, ha parlato anche dei movimenti anti-europeisti con un duro attacco, ma ha parlato anche dell'Expo. Dunque sentiamo la sua voce. Per noi Milano Expo 2015 avrà lo stesso impatto che nella storia italiana hanno avuto le Olimpiadi di Roma del 1960. Quell'avvenimento, le Olimpiadi di Roma del 1960, hanno mostrato al mondo che cosa era stato il miracolo economico italiano, un paese distrutto dalla guerra, diviso, che aveva con il miracolo economico degli anni 50 mostrato al mondo la sua capacità di essere guida, era entrato da fondatore nella comunità europea, e oggi abbiamo l'occasione con Expo 2015 di mostrare al mondo l'Italia, un paese che sta ricominciando a crescere e che vuole essere protagonista delle grandi scelte del futuro. Così Enrico Letta, e noi rimaniamo in ambito di temi europei, perché Catherine Ashton, alto rappresentante per la politica estera dell'Europa, sarà a Kiev per tentare una mediazione a partire da domani. Intanto resta piuttosto alta la tensione in piazza. Poco fa sono arrivati dei blindati nella piazza principale di Kiev, dove stanno protestando i manifestanti a favore degli accordi con l'Unione Europea, i quali manifestanti hanno chiesto, come vi raccontavamo nei titoli, a donne e bambini di lasciare la piazza, quindi aspettandosi probabilmente appunto nuovi ulteriori momenti di tensione. Sentiamo dunque l'analisi di Antonella Scott. Tende e barricate sono ormai coperte di neve, ma a Kiev il braccio di ferro tra dimostranti filoeuropei e autorità continua. Una situazione surreale in cui l'Ucraina cammina sull'orlo di una rivoluzione o di una repressione violenta della protesta. I due fronti si scambiano accuse reciproche. Il governo afferma che l'opposizione sta preparando un golpe. I manifestanti temono un colpo di mano delle forze dell'ordine. Quello che è certo è che nessuno sembra aver voglia di trovare un punto d'incontro. Il presidente Yanukovych finora non ha dato alcuna indicazione di voler accogliere le richieste dell'opposizione, che vuole la liberazione dei prigionieri politici, la punizione dei responsabili degli attacchi ai manifestanti dei giorni scorsi e soprattutto le dimissioni del governo e elezioni anticipate. Dopo la mobilitazione di domenica, a cui avrebbero partecipato 500.000 di persone, oggi sulla piazza dell'Indipendenza di Kiev sono tornati per ora in alcune centinaia. Il leader più in vista dell'opposizione, il pugile Vitali Klitschko, ripete loro di non cedere alla violenza. Ma intanto domenica sera un gruppo di manifestanti ha abbattuto la statua di Lenin e nessuno si assume la responsabilità del gesto, malgrado intorno sventolassero le bandiere di un partito ultranazionalista, Svoboda. Il rischio che una scintilla faccia precipitare la situazione è altissimo. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. Adesso parliamo anche di IMU, perché oggi è una scadenza importante. Poi ci sono un paio di sms sulla protesta dei forconi ai quali vogliamo rispondere, ma lo faremo dopo la viabilità. Parliamo di tasse e parliamo di IMU, perché oggi è una scadenza importante per i comuni. Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Che cosa devono fare i comuni entro oggi? Entro oggi ogni comune deve pubblicare sul proprio sito internet la delibera con le aliquote dell'IMU per il 2013, quindi in sostanza le aliquote che devono essere usate per pagare il saldo, saldo che è in scadenza lunedì 16 dicembre, quindi tra 7 giorni esatti. È un passaggio importante perché è questa pubblicazione sul sito di ogni singolo comune l'unica ad avere valore legale, secondo quello che stabilisce la legge. Quindi anche chi cercasse informazioni sul sito delle finanze troverà molte delibere, ma dovrà fare attenzione perché non necessariamente quella pubblicata sul sito delle finanze sarà l'ultima e sarà quella effettivamente valida da prendere come riferimento per il calcolo del saldo. Ricordiamo tra l'altro che il problema del saldo al momento riguarda tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e quella parte dei terreni agricoli che non è stata esentata anche dal pagamento del saldo. Per le abitazioni principali in cui i comuni hanno alzato l'aliquota al di sopra della soglia del 4 per mille, resta ancora tutto da risolvere il nodo della cosiddetta mini IMU, che ad oggi dovrebbe essere pagata entro il 16 di gennaio, ma questo è un problema che con lo scarso anticipo a cui ormai siamo abituati verrà affrontato nelle prossime settimane. Come sempre, anticipo troppo scarso, tutti i dettagli oggi sul Sole 24 Ore, grazie intanto a Cristiano Dell'Oste. Sole 24 Ore che riporta, tra l'altro, la notizia, ve la vogliamo dare, è che ci sono 57 comuni italiani che non hanno nemmeno un sito internet sul quale appunto dovrebbe essere pubblicata appunto questa notizia, appunto per quanto riguarda il calcolo dell'IMU, e quindi ci saranno i cittadini di 57 comuni che non sapranno che cosa andare a pagare se non si andranno a informare direttamente in comune. Veniamo alle 26 coppie italiane in Congo per un'adozione internazionale, bloccate nel paese da 4 settimane, non possono tornare in Italia con i loro bambini perché, nonostante un accordo sottoscritto dal nostro paese, mancano i permessi di uscita per i minori. Queste coppie chiedono aiuto alle nostre autorità anche perché molti rischiano di perdere il lavoro e altri hanno lasciato i figli naturali in Italia. Una di queste persone, la componente di una di queste coppie, Francesca Morandin, l'ha raggiunta Katia Caramelli. Quando avevamo già il bimbo con noi, siamo andati a depositare il dossier alla polizia di immigrazione, che è quella che si occupa appunto di controllare un'ultima volta il dossier e poi darci il visto d'uscita del bambino. E quando siamo arrivati là abbiamo scoperto che la polizia non avrebbe di nuovo più rilasciato questi visti. La spiegazione non c'è, perché non c'è nulla di scritto. E a tutt'oggi ancora una spiegazione chiara non c'è. Noi siamo qui da quasi 4 settimane e i tempi stimati erano di 3 settimane, però capisce che sono 4 e ancora non abbiamo nessun barlume di apertura. E qua le persone hanno un lavoro, c'è gente che rischia la posizione lavorativa e poi i costi qui di vita sono molto alti, quindi insomma è dura, ecco. Potreste solo partire lasciando i bimbi lì. Un'ipotesi che ci hanno fatto, ma ovviamente dopo aver visto dove stavano i bambini e dopo aver visto come stavano i bambini, nessuno di noi vorrebbe neanche prendere in considerazione questa. Noi abbiamo questo bambino che sta male, e sta male perché non è stato trattato, non è stato curato, non è stato alimentato per ben un anno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. È scattata in tutta Italia la protesta degli autotrasportatori e dei cosiddetti forconi. Sono state bloccate alcune autostrade, ci sono presidi in molte città e tensioni in piazza a Torino. Renzi, il giorno dopo il trionfo, questo pomeriggio il sindaco di Firenze annuncerà la composizione della segreteria, poi stasera probabilmente un incontro con Letta. IMU, i comuni hanno tempo fino a questa sera per pubblicare le delibere sulle aliquote sui loro siti internet. 57 comuni, tra l'altro, il sito internet proprio non ce l'hanno. Tra una settimana la scadenza di pagamento per seconde case, immobili strumentali. C'è ancora tensione in Ucraina, una colonna di blindati è arrivata nella piazza di Kiev. I manifestanti chiedono a donne e bambini di lasciare il posto. E in apertura di questa seconda parte torniamo sulla protesta dei cosiddetti forconi. Innanzitutto saluto Roberto Alesse, che è presidente della commissione di garanzia sugli scioperi. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. E bentornato ai nostri microfoni. Grazie mille. Allora, vede estremi di irregolarità in quello che sta succedendo in Italia in queste ore? Guardi, intanto mi lascio esprimere la solidarietà al carabiniere ferito, mi risulta, a Torino in queste ore, e quindi la solidarietà va a tutte le forze dell'ordine che sono impegnate in questa difficile fase di difesa del principio della legalità. Noi stiamo monitorando attentamente quanto sta avvenendo su tutto il territorio nazionale. Ricordo a tutti che già l'anno scorso una situazione analoga si è verificata e che l'autorità di garanzia è intervenuta pesantemente per sanzionare i comportamenti illegittimi posti in essere dai protagonisti dei blocchi stradali. Non è infatti tollerabile che la protesta si trasformi in una paralisi nel settore della distribuzione, perché il trasporto merci è un servizio pubblico essenziale. Quindi anche sul versante delle nostre competenze il principio che sarà applicato è quello, come già ho detto ieri, della tolleranza zero. Mi lasci però dire che tutto quello che sta capitando su scala nazionale a livello di crisi economica ci fa capire che il Paese corre il rischio di scivolare lungo un crinale pericoloso che vede il disagio sociale riversarsi sempre di più sul piano del mancato funzionamento dei servizi pubblici essenziali. Le risposte a mio avviso sono ancora oggettivamente deboli e poco efficaci, nonostante gli sforzi che stanno compiendo, soprattutto. Quindi ritiene Alessia che di qui a fine anno episodi a fine anno e poi insomma diciamo all'inizio dell'anno prossimo episodi di questo tipo possano continuare a verificarsi, e mi riferisco a questo tanto quanto allo sciopero selvaggio del trasporto pubblico per esempio di Genova o per esempio di Firenze? Ma non c'è dubbio, guardi, proprio a questo riguardo proprio occorrerebbe che tutti i soggetti istituzionali chiamati per competenza a fare la loro parte si coordinassero in modo sinergico e neutralizzassero in modo anticipato le proteste attraverso un'incisiva azione di prevenzione e di mediazione del conflitto. Occorre in altre parole una regia complessiva in grado di favorire il dialogo, fermo restando ovviamente l'applicazione della legge. Noi oggi sappiamo benissimo quali sono le aree di crisi, lei ha citato poc'anzi l'area che riguarda il trasporto pubblico locale, insomma, quindi che cosa aspettiamo? Che aspettiamo a fronteggiare queste aree di crisi? Ecco, l'autorità di garanzia nel suo piccolo sta dando il suo contributo. Grazie Roberto Alesse, presidente appunto dell'autorità di garanzia sugli scioperi, e buona giornata. Ci chiedete, allora, un ascoltatore scrive via SMS, chiedere ai forconi, come abbiamo fatto prima, la ricetta per uscire dalla crisi è un po' vigliacco, no? In realtà non è una questione di vigliaccheria, semplicemente avevamo in diretta una persona che protesta, gli abbiamo chiesto perché protesta e se c'è una parte propositiva. Esattamente quello che facciamo con Angelo Todaro da Siracusa, costituente della Rete Civica Nazionale, insomma sempre del gruppo che ha organizzato questa giornata di protesta. Buongiorno Todaro. Buongiorno, allora. Io volevo sottolineare che noi stiamo protestando non per creare subbugli, per creare feriti e per creare focolai di violenza, perché il nostro diritto è il rispetto della Costituzione. Difatti sia nei volantini che nei nostri manifesti non ci sono partiti, non ci sono sindacati, siamo tutti cittadini italiani. E ove si verificassero dei focolai di violenza o infiltrati, i manifestanti che aderiscono a questa rivoluzione pacifica consegneranno direttamente alle forze dell'ordine questi soggetti che creano malcontento e violenze all'interno della manifestazione. Questo è un bene. Todaro, lei che cos'è? Un autotrasportatore? No, io sono il presidente della Rete Civica Nazionale, sono un industriale dell'energia eolica. Un industriale dell'energia eolica. Mi dice perché è sceso in piazza oggi e che cosa proponete, che cosa volete, che cosa chiedete? Noi siamo scesi in piazza oggi perché doveva essere una data storica per la nostra nazione, per il nostro paese, ma stanno verificando una serie di atti da parte della pubblica amministrazione, quali anche diffide nei confronti degli organizzatori per cercare di bloccare il paese. Capisco che è un disservizio per i cittadini italiani bloccare il trasporto su gomma, che trasporta l'80% delle merci, però oggi il paese è alla disperazione. Le chiedo anche questo, Todaro, le chiedo anche questo, cosa che mi chiede qualche ascoltatore. Dicono, ma sì, insomma, ma vi sembra un modo giusto di protestare? Cioè in questo modo voi state creando problemi a molti cittadini, anche quelli che si muovono su strade e autostrade, anche alle persone che, beate loro, un lavoro ce l'hanno, si devono muovere e appunto devono lavorare e quindi alla fine anche creare crescita, insomma, un po', alcuni dicono è un po' un controsenso questa protesta. non è un controsenso, perché i cittadini che lei dice che oggi si devono muovere, che devono lavorare, sono proprio tutti i cittadini che si lamentano giorno dopo giorno perché la situazione è diventata incresciosa e non si riesce più a portare avanti le proprie famiglie. A me dispiace che qualcuno oggi possa avere dei disguidi nel viaggiare o nello spostarsi, però sino ad oggi, siccome ci hanno raccontato sempre le favole dall'Ottocento e ancora ieri continuano a raccontare queste belle barzellette, il popolo italiano deve prendere una decisione. Oggi la decisione è di carattere pacifico e tranquillo. Fra 3-4 mesi non si sa se si creeranno focolai nel paese e anche con infiltrati e con violenze. Quindi lei teme violenze per i prossimi mesi? Sì, perché io gli faccio degli esempi ora, parlo brevissimo, di economista. Un paese come Siracusa, dove io avevo un'azienda con 220 dipendenti diretti e 500 dell'indotto, che produceva torre eoliche, che per 2 anni è stata in cassa integrazione, finisce la cassa integrazione, lei mi dice cosa dico ai dipendenti e alle famiglie che non possono più vivere, campare, pagare bollette e mantenere i propri figli? Mi dia una soluzione. E perché non la date voi? La diamo noi la soluzione? Perché? La soluzione che diamo noi, la sa qual è? Quella di lasciare l'iniziativa di libera impresa a tutti i cittadini italiani, di fare tutto ciò che non è vietato nel rispetto delle leggi. Non che in Italia si spendono 80 miliardi in 2 anni per il non fare, mancate autorizzazioni chieste 10 volte. Non è possibile che per poter aprire un'attività occorrano ci voglia così tanto tempo. Contrariamente a quello che succede, gli faccio un tipico esempio: in Georgia con $200 si può aprire un'attività in 24 ore. Allora, io la ringrazio, Todaro, per essere stato con noi. La devo fermare. A chi chiede, Spezia, dove ha letto la notizia degli infiltrati? Guardi, l'ha detto stamattina lo stesso Mariano Ferro, leader del Movimento dei Forconi, a Radio 24, ospite di Anna Migliorati, ha detto: ho paura, io per primo ho paura, perché, testuale, le infiltrazioni mafiose, le infiltrazioni di estremisti di destra o di sinistra non ci fanno bene, fanno un favore al sistema, e dice che ha paura che ci siano, e quindi se si temono, li teme direttamente il leader del Movimento. Angelo Pittorru, sindaco di Sant'Antonio di Gallura, buongiorno. Buongiorno. Ogni giorno, quasi ogni giorno, quando abbiamo tempo, cerchiamo di sentire uno dei sindaci della Sardegna colpita dall'alluvione, per non lasciarli soli. Pittorru, com'è la situazione da voi? Ma la situazione, per quanto diciamo abbastanza difficile, più o meno siamo in ripresa e stiamo tentando di tornare alla normalità. Noi non abbiamo avuto fortunatamente vittime. Abbiamo subito dei danni, per esempio abbiamo le strade rurali, e per noi sono importanti, mi creda, completamente distrutte, e ci hanno abbattuto un paio di ponticelli, abbiamo subito danni sul tetto della scuola media, e non sono danni gravissimi, però per le nostre poche risorse insomma sono una cosa importante, e stiamo cercando proprio con i nostri pochi mezzi di tornare alla normalità, e in questo senso ci stiamo adoperando tutti con ogni nostra energia. Pittorru, una domanda che ormai è diventata quasi tradizionale ai sindaci della Sardegna che stiamo sentendo, nel caso non vi venga consentito da parte del governo, sforerà sul patto di stabilità per rimettere a posto le strade? Ah, ma noi penso che ci accorderemo tra sindaci del territorio proprio per sforare il patto, perché non possiamo assolutamente permettere che le nostre strade non siano percorribili, per noi è questione di vita o di morte, le aziende, le nostre aziende che sono tutte piccole rischiano di morire definitivamente, e questo noi non ce lo possiamo permettere assolutamente. Grazie Angelo Pittorru, sindaco di Sant'Antonio di Gallura, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Naturalmente. Noi ci fermiamo, c'è una pausa, poi c'è la borsa, ci ritroviamo subito dopo, c'è l'inchiesta di Daniele Biecchessi. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Segnali di ripartenza debolissimi che non si possono cogliere con un ottimismo particolare. Così Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, che dice: giro tra le imprese e vedo tanta disperazione. Tanto in Italia è scattata la protesta degli autotrasportatori, dei cosiddetti forconi, bloccate alcune autostrade, ci sono dei presidi in una serie di piazze, ci sono state tensioni e scontri a Torino. Renzi, il giorno dopo il trionfo, questo pomeriggio il sindaco di Firenze annuncerà la composizione della segreteria, poi stasera probabilmente un incontro con Letta. Ancora tensione in Ucraina, una colonna di blindati è arrivata nella piazza di Kiev, i manifestanti chiedono a donne e bambini di lasciare il posto. Allora, prima di andare all'inchiesta di Daniele Biacchessi di questo lunedì, come sapete questa trasmissione solitamente non prende telefonate, però dato che abbiamo fatto sentire l'autorità costituita nella persona del Presidente della Commissione di Garanzia sugli scioperi, abbiamo sentito la voce dei rappresentanti del Movimento dei Forconi, ci ha chiamato un ascoltatore che è bloccato da questa mattina. È Paolo da Bologna, buongiorno. Buongiorno, salve. Dove si trova? Io in questo momento sono al casello di Montecchio Maggiore e sono qui dalle 9 di stamattina. Ok, quindi un discreto numero di ore. Ed è ancora tutto fermo? Allora, praticamente io adesso sono in procinto dell'uscita. I manifestanti ogni 10 minuti fanno passare qualche camion e qualche macchina e poi si richiudono a riccio senza far passare nessuno. Prego. No, dico, la cosa più sconvolgente è che non fanno passare nessuno, quindi non solo i camion, come era stato detto all'inizio, non fanno passare neanche le macchine. C'è gente che piange perché non può tornare a casa, tensioni tra anche noi automobilisti che per un posto rubato in una fila ci si insulta un po', dopo tutte queste ore ci può anche stare. È un po' arrabbiato, immagino. Doveva andare al lavoro, sì. Lei? Io sarei dovuto andare da un cliente, tra l'altro lavoro per la sanità pubblica, quindi in questo momento la sanità pubblica sta spendendo dei soldi per farmi stare qui in fila, e quindi siamo messi un po' così, speriamo di liberarci presto. Grazie Paolo per la sua telefonata, buona giornata e spero che insomma ce la faccia a breve, in tutta sincerità. Sentiamo l'inchiesta di Daniele Biacchessi di oggi. Si chiama Jeffrey Silverman e vive a Tbilisi, capitale della Georgia, la stessa città dove Antonio Russo, giornalista freelance di Radio Radicale, aveva vissuto gli ultimi giorni della sua breve vita prima di essere stato trovato morto il 16 ottobre del 2000 in Georgia, ammazzato per le sue cronache della guerra in Cecenia e le sue inchieste sui crimini delle truppe russe. Per Jeffrey Silverman non ci sono però dubbi. L'omicidio di Antonio venne ordinato, secondo lui, dai servizi segreti georgiani. Certamente non dai ceceni, che volevano bene al giornalista, e certamente non dai russi, come in molti invece avevamo sospettato fin dall'inizio. Con Jeff Silverman incontriamo anche Francesco, lo lasciamo solo con il suo nome, che vive anche lui in Georgia e che segue da tempo con attenzione gli sviluppi delle indagini sulla morte di Antonio Russo e di alcuni altri giornalisti d'inchiesta in Georgia. I'm convinced it was not the Chechens because he had very good relations with the Chechens. He was living with two brothers, Iki and Uchi. Back in 2005, one person from Italian Interpol and another Italian working in Georgia went to Pankisi, and we spoke to people who knew Antonio Russo. He had very good relations with the Chechens. And two, I don't believe it's the Russians. I believe it was the Georgians who killed him because he was learning too much of what was going on in the Pankisi Valley. But if the Georgians killed him, I think it would have been with agreement from the Americans. Because the Americans were funding the Pankisi operation. They had set up financial mechanisms of credit unions. Allora, evidentemente c'è qualche problema, c'è stato qualche problema con il file di Daniele Biacchessi, non c'era la traduzione sopra l'intervista realizzata, naturalmente ve la riproporremo appena avremo il la cosa completa, insomma, anche con la traduzione sopra. Intanto andiamo alle notizie, o almeno qualche dichiarazione in questo momento, le ultime dichiarazioni che arrivano soprattutto dalla manifestazione dei Forconi. C'è un altro dei portavoce di Torino, non quello che abbiamo sentito noi in onda, dice a proposito degli scontri che ci sono stati: un manipolo di giovani aggressivi e violenti che poco c'entrano con la manifestazione, che è stata del tutto pacifica. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Segnali di ripartenza debolissimi, dice Squinzi. Giro tra le imprese e vedo disperazione, aggiunge il presidente di Confindustria. La protesta dei cosiddetti Forconi, come avete sentito anche negli aggiornamenti della viabilità, sta creando molti problemi al traffico. Ci sono autostrade bloccate e c'è stata tensione in piazza a Torino. Gli organizzatori dicono solo alcuni giovani, non parte del movimento. Ci sono presidi in molte piazze italiane. Alla protesta aderisce anche Forza Nuova. Questo pomeriggio Matteo Renzi annuncerà la composizione della segreteria. Il giorno dopo il trionfo, stasera probabilmente ci sarà un incontro con Enrico Letta. Berlusconi intanto lancia un'ipotesi di governo con tutti, anche con Sinistra, Ecologia e Libertà e Movimento 5 Stelle, per fare una nuova legge elettorale. Ancora tensione in Ucraina, domani l'alto rappresentante europeo per la politica estera Ashton sarà a Kiev per cercare un punto di mediazione. Intanto una colonna di blindati è arrivata nella piazza principale dove si svolge la protesta, i manifestanti hanno chiesto a donne e bambini di lasciare il posto. È il momento di Mario Platero e di America 24. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buongiorno Simone, da New York Mario Platero. Gli ispettori dell'ONU sono arrivati in Iran, sono arrivati ieri e dunque continuiamo nel tentativo di recuperare il rapporto con Teheran, il tentativo che è partito dall'amministrazione Obama, da Washington, che ha creato molte polemiche di vario genere. Perché? Beh, perché si sta cambiando con questo sviluppo iraniano l'assetto su cui hanno poggiato gli equilibri medio orientali negli ultimi decenni. La svolta iraniana potrebbe in effetti portare a dei cambiamenti, per esempio dei rapporti degli Stati Uniti con Israele, per esempio con l'Arabia Saudita. Sono due paesi che sono molto preoccupati. Dunque l'arrivo di questi ispettori è un fatto simbolico, ma il problema con cui ci confrontiamo è capire che cosa sta capitando da un punto di vista macro in Medio Oriente. E io ero a Washington qualche giorno fa, dove ho partecipato ai lavori del Council for United States and Italy, e ho avuto la possibilità di chiacchierare con Giampiero Massolo, che è il direttore dell'intelligence italiano, ma è stato anche il segretario generale della Farnesina, dunque è in una posizione chiave per mettere insieme diplomazia e soprattutto per avere una gran quantità di analisi, di informazioni di primissima mano. Uno degli elementi chiave in questo periodo riguarda un altro dibattito, cioè gli Stati Uniti, col fatto che diventano autonomi dal punto di vista energetico, possono disimpegnarsi dal Medio Oriente o no? Proprio da questo è partita la mia chiacchierata con Giampiero Massolo, che vi ripropongo, cioè dal possibile o meno disimpegno americano dal Medio Oriente. Io non credo che gli americani possano seriamente disimpegnarsi dal Medio Oriente. A parte la classica ragione, che è quella dell'energia, è vera la questione dello shale gas, quindi di una relativa indipendenza americana dal punto di vista energetico, ma ciò non di meno l'interesse strategico alle fonti primarie resta immutato e quindi resta immutato il commitment americano per la regione. Ma ci sono anche altri elementi, c'è intanto l'elemento del terrorismo internazionale. in questa grande Z che parte dall'Africa settentrionale, si prolunga fino all'Egitto e oltre, scende al Sahel, alle regioni dell'Africa subsahariana e poi torna verso il Corno d'Africa e oltre, verso lo Yemen. Questa è la sfida che la comunità internazionale si trova a dover affrontare, che è quella appunto dei jihadismi, che è quella di Al-Qaeda, che è quella del grande terrorismo internazionale. Ecco, parlando di terrorismo e di grande terrorismo internazionale, qual è il polso? Lei ha avuto, avrà degli incontri anche qui a Washington, continua ad esserci una situazione di forte allerta, di rischio, di pericolo che possa ritornare il terrorismo? Qual è la sua percezione? Ma sicuramente non ci fanno stare tranquilli questi bacini di incubazione che sono per esempio il conflitto siriano, che non si risolve, sono alcune regioni del Sahel, sono le ragioni e le regioni che hanno indotto i francesi ad intervenire in Mali, sono alcune parti della Libia. Sicuramente lì il terrorismo internazionale attecchisce. Ci sono delle sorte di palestre dove anche terroristi che partono dall'Europa, che magari spesso si sono anche autoeducati sul web, possono essere reclutati, andare e ricevere un addestramento che appunto non ci fa stare tranquilli. Ecco, il web è un elemento nuovo e determinante. Sappiamo delle polemiche che ci sono stati per i tentativi, soprattutto americani, ma poi abbiamo scoperto anche di altri, di avere quante più informazioni possibili. Ecco, dal suo punto di vista, dal punto di vista italiano, qual è il limite? Fino a dove possiamo spingerci per ottenere informazioni preziose che immagino lei probabilmente vedrà ogni tanto, quindi ci potrà confermare se in effetti funziona, se in effetti si vedono delle informazioni che consentono di prevenire e fino a dove è meglio fermarsi? Ma sicuramente l'analisi del web, come più in generale l'analisi delle cosiddette fonti aperte, è una miniera preziosa di informazioni. Molto, per non dire tutto o quasi tutto, si trova sulle fonti aperte, basta saperlo cercare. Questo non è solo un fatto di skills individuali, è anche un fatto di tecnologie. Da questo punto di vista le intelligence, inclusa quella italiana, stanno cercando di fare progressi. C'è ovviamente poi la questione del limite, e su questo, come sappiamo, la situazione è un po' differente culturalmente fra le due sponde dell'Atlantico, perché in questo paradigma, che è il rapporto fra sicurezza e garanzia, sicuramente le legislazioni americane sono più portate verso la tutela della sicurezza, mentre le legislazioni europee sono storicamente portate più verso la tutela della garanzia dei diritti individuali. Io credo che un dialogo fra le due sponde dell'Atlantico, i cui prodromi, qualche inizio si sta verificando proprio in questo periodo, credo che debba continuare. È un fatto culturale, le culture vanno avvicinate. Ecco, per chiudere, ci sono state svolte storiche proprio nelle ultime settimane, l'accordo con l'Iran, uno sviluppo sul teatro asiatico, quindi fuori dal Medio Oriente, con la Cina che ha messo un po' il piede sull'acceleratore per la questione dell'arcipelago. Ecco, lei ha un'impressione che forse l'America, pur di raggiungere degli accordi, per raggiungere qualche cosa che sia più vicino alla distensione che al confronto, forse stia cedendo un po' troppo? La tentazione dell'eredità è propria di tutte le amministrazioni americane, soprattutto di quelle che giungono al secondo mandato. Io credo però che le condizioni complessive di sicurezza del mondo inducano a fare molta attenzione anche su eredità che magari possono sembrare seducenti e che in realtà sono solo di corto periodo. E quindi vale la pena di trovare il compromesso e cercare la distensione? Il compromesso vale sempre la pena di essere perseguito, e la distensione sicuramente sì, ma non a ogni costo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com e su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, una Fender Stratocaster rossa con sfumatura gialla e la chitarra che Bob Dylan suonò durante lo storico Newport Folk Festival del 65. Beh, è andata all'asta da Christie's e ha venduto per $965,000, una cifra record. E dunque a Bob Dylan dedichiamo una canzone che così simboleggia questa sua continuità, Forever Young.